Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento di questa settimana insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e nuovamente con noi il presidente Carlo Garofolini al telefono. Benvenuto Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi argomento che è all'attenzione di tutti, perché magari qualcuno ci sta sperando, qualcuno è riuscito a mettersi via un po' di soldini per queste agognate vacanze che si spera debbano sempre andare nel verso giusto, ma purtroppo, ahimè, non è sempre così. Sì, alla vigilia, Francesco, delle vacanze, delle agognate ferie, penso che sia utile ricordare a tutti gli ascoltatori che l'Adico ha uno sportello denominato apposta vacanze informato, che tende, oltre a raccogliere tutte quelle che sono le segnalazioni di servizi che i consumatori possono trovare nelle strutture durante la prenotazione nei viaggi, anche una serie di consigli utili per non trovarsi poi ingabbati su questi che sono i tranelli che vengono tesi con tanta disinvoltura. Da ricordare soprattutto come in questa puntata andremo a parlare di quelli che sono stati un po' i dati sul padovano, visto che voi insomma state trasmettendo da Padova, e soprattutto anche ricordare come lo sportello Vacanza Informata era aperto tutta l'estate, compreso agosto. Mm-hmm. Immagino che le cose che succedono a un padovano che va in vacanza succedono a un veneziano, a un trevigiano, insomma, poi alla fine possiamo estendere tranquillamente, questa cosa non ha confini, no? No, questa cosa non ha confini, noi diamo assistenza a tutti a prescindere dalla località dove uno chiama, però i dati che andiamo un pochino a snocciolare riguardano fondamentalmente l'attività che l'Adico ha svolto nel padovano e soprattutto il risultato come nel 2014 i casi che lo sportello ha trattato e tra parentesi conclusi tutti in maniera sostanzialmente soddisfacente sono stati circa una quarantina per Padova, e veramente possiamo dire che in maniera sintetica i casi più comuni riguardano soprattutto le strutture ricettive che risultano inadeguate rispetto a quelle che sono un pochino le immagini o i servizi promossi nei cataloghi e nei siti. C'è sempre poi chi si lamenta delle pulizie, dei servizi, dei costi aggiuntivi che vengono richiesti quando ci si trova in queste strutture che a volte promuovono delle formule all incluse che alla fine non risultano tali. E poi da non sottovalutare quelli che sono, noi denominiamo un po' i problemi logistici che hanno a che fare, se riconducono con il trasporto, in particolar modo con l'aereo o per effetto dei ritardi, dei voli cancellati, ma anche tante volte gente che insomma si è trovata con i bagagli smarriti e quindi con tutte le difficoltà che possiamo immaginare. Quindi le cose che possono capitare sono innumerevoli. Devo dire che è cambiato anche il modo, no? di ordinare un viaggio, di affrontarlo. Una volta c'era veniva visto il turista che faceva da sé, incappava in tantissimi problemi, no? C'erano delle pubblicità specializzate in questo e quindi ci si rivolgeva alle agenzie di viaggio che facevano tutto. Ora spesso magari si va in internet, si ferma un posto guardando le fotografie, poi magari addirittura si prenotano degli appartamenti che non esistono. Insomma, ci sono i problemi che vanno risolti e bisogna essere un pochettino attenti. Sì, è chiaro che in un momento di crisi si cercano le formule più convenienti e soprattutto si rimane anche sempre più frequentemente vittime dei casi che hai elencato. Certamente bisogna anche ricordare che quando si cerca di risparmiare ci si espone anche a quelli che sono un po' dei rischi, soprattutto con internet, dove sappiamo che ormai le trappole sono veramente tantissime. Ricordiamoci che sempre più va in voga l'hotel, le strutture in affitto, il bed and breakfast. Poi ci sono questi centri di benessere che molte volte si sostituiscono a quei tradizionali alberghi che fino a poco tempo fa eravamo abituati a utilizzare, ma soprattutto dobbiamo anche ricordare che per effetto della nuova norma entrata in vigore meno di 2 anni fa, oggi quando si chiede il rimborso delle vacanze rovinate a richiedere il danno patrimoniale, ma c'è anche il cosiddetto danno morale che può incidere a seconda unicità della vacanza che può avere o che una persona si può trovare ad aver fatto. Facciamo un esempio, pensiamo al famoso viaggio della vita in cui una persona per tutta la vita ha desiderato, non so, andare alla Hawaii un mese e e questa unicità sicuramente non poteva riproporsi rispetto a chi magari si trova a doversi fare la settimana al mare, sì, qui, la settimana o weekend nelle nostre zone, sì. E quindi evidentemente anche lì viene presa in considerazione l'unicità del viaggio e quindi eventualmente un rimborso più importante. Sì, l'unicità determina il danno morale, ecco, giusto per dare un concetto nuovo rispetto a quello che qualche anno fa non esisteva. E soprattutto riteniamo che in occasione di queste prenotazioni il consumatore debba fare moltissima attenzione, soprattutto quando ci sono poi dei bambini, perché ricordiamo che i bambini sono quelli che possono in qualsiasi momento ammalarsi o creare imprevisti, quindi attenzione alle polizze assicurative e soprattutto a quelle che sono le clausole che troppe volte, per effetto di immagini forti, si cercano a non leggere, in preda anche a quello che è un po' l'entusiasmo alla vigilia di queste vacanze, che si arriva alla fine dell'anno veramente stanchi. Quindi bene assicurarsi magari il viaggio, spendere quei pochi euro in più, però se all'ultimo momento salta tutto, almeno ti ritrovi rimborsato e non perdi un bel po' di soldini. Io mi ricordo dei tuoi consigli, anche quelli che se non ci piace la camera, se c'è qualche cosa che non ci è andata bene, insomma ormai abbiamo tutti una macchina fotografica, uno smartphone con noi, e quindi fotografare e memorizzare le cose che ci sono accadute anche con le immagini, che poi possono servire per farsi rivalere. Sì, è fatto bene a ricordarlo, perché quando accadono queste cose è importantissimo documentare quello che è il disservizio, quindi fotografie, testimonianze, eventuali acquisti che hanno dovuto sopperire quelle che sono state delle esigenze, e tutto quello che può, insomma, aiutare anche i nostri uffici a fare in modo che, insomma, la pratica possa completarsi in maniera veloce, piuttosto che, insomma, trovarsi a dover, insomma, rivolgersi a tribunali di un tipo rispetto di un altro. Quindi tutto quello che può essere utile a documentare e che può portare una testimonianza di quello che ci può accadere, certamente aiuta tutti a fare il proprio lavoro e all'utente a ottenere giustizia. Spesso non abbiamo voglia magari di iniziare a protestare, perché poi ci si lascia, si dice ma sì, ormai questa volta è andata così, ma insomma invece è importante sapere che c'è uno sportello vacanza informata all'Adico, www.associazionedifesaconsumatori.it, dove magari chiedendo lumi e consigli si può ottenere quello che è giusto che sia, quindi se abbiamo subito un danno ottenerlo anche in quella che è stata la nostra vacanza. Grazie quindi al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini, alla prossima settimana. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.